24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Vertice europeo, fronte comune Monti Holland sugli Eurobond, borse giù, Milano la peggiore. Piazza Affari perde il 3,68%. A Bruxelles la settimana verde, si parla di acqua, ambiente ed economia sostenibile. Secondo la FAO, nel vecchio continente si sprecano 80 tonnellate di cibo, in Italia il 10%. Festival di Cannes, polemiche sul pagamento delle interviste alle star. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Si parla di crisi greca e crescita al Consiglio europeo e si crea un asse tra Mario Monti e François Hollande in cui la crescita è la priorità. L'accordo sarebbe mirato a smuovere le resistenze di Berlino, ma la cancelliera Angela Merkel non sembra intenzionata a cambiare idea. Non credo, ha detto, che gli eurobond aiutino a stimolare la crescita. Le speranze di un accordo quindi sono minime e i mercati finanziari ne risentono. Milano chiude con meno 3,68% ai minimi dal marzo 2009. È stata un'altra giornata di passione sui listini europei, dove i timori sempre più concreti un'uscita della Grecia dall'Eurozona e i continui no tedeschi agli Eurobond per rilanciare la crescita europea hanno finito per scatenare le vendite. Londra, Parigi e Francoforte hanno ceduto 2,5 punti percentuali, Madrid ha ceduto il 3,3%, portando la borsa spagnola ai minimi dal 2003, mentre Milano ha fatto peggio di tutti col FTSE MIB, che è franato del 3,68%. Le vendite più forti sono state quelle sul comparto bancario, con Monte dei Paschi e Biper, che hanno ceduto oltre il 7%. Male anche Pirelli, meno 6%, dopo un report negativo degli analisti di Goldman Sachs. Fra i pochi spunti positivi, ST Microelectronics, che ha guadagnato l'1,2%, continuando a beneficiare delle nuove commesse ricevute dalla joint venture con Ericsson, che, in passato, ha creato molti problemi al gruppo franco-italiano. Positiva anche Fiat, più 0,2%, che ha annunciato un accordo con Mazda per produrre una nuova Spider col marchio Alfa Romeo. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. L'acqua è il tema della Settimana Verde Europea 2012. Il settore agricolo, attività in cui se ne consuma di più, è impegnato su come utilizzare al meglio questa risorsa. Ma le premesse non sono incoraggianti. Sentiamo la nostra inviata a Bruxelles. C'è un mantra che risuona alla Green Week europea quest'anno. Non ci sono soluzioni buone per tutti. Lo si sente nelle discussioni sull'efficienza idrica, sulla scarsità d'acqua o sui cambiamenti climatici. Amministrati e amministratori rifiutano l'idea di un ordine di servizio. Karl Falkenberg interviene nella sessione dedicata all'agricoltura, il settore che più consuma acqua e non di rado la inquina. È il direttore generale per l'ambiente della Commissione europea. Lavora al piano europeo di gestione dei bacini idrici. No water abstraction without metering and within authorized limitations. Le regole che metteremo saranno poche e chiare, dice. No all'estrazione di acqua senza misurazione e con limiti per l'agricoltura, limitazione dei pesticidi, no all'immissione nel sottosuolo di acque per così dire usate e non trattate. Alla sua sinistra Paolo Goveia della Copacogeca, l'Unione degli Agricoltori Europei, non entra nel merito ma batte sul chiodo dell'amore che lega il contadino alla terra. A questo punto Falkenberg sorride. Quando diciamo ai pescatori che le risorse ittiche sono troppo sfruttate, rispondono più o meno allo stesso modo, eppure pescano i pescatori, non i burocrati. Noi poi chiediamo a Guvieia che tipo di misure abbia in mente. Lui però resta spiazzato. Insomma, una soluzione unica non va bene, ma sarà opportuno che i burocrati ne suggeriscano almeno qualcuna dettagliata. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Bruxelles. Oltre che a Europa e Stati Uniti, Fiat ora guarda al Giappone. In questo senso va letto l'accordo tra Lingotto e Mazda per una nuova Spider. Andrea Malan del Sole 24 Ore. Fiat e Mazda hanno annunciato un'intesa per la produzione in comune di una vettura Spider che per quanto riguarda Fiat avrà il marchio Alfa Romeo e che verrà prodotta nello stabilimento giapponese di Hiroshima. È solo un primo accordo, le due aziende hanno già detto che esploreranno la possibilità di altri accordi di questo tipo in Europa. La Mazda quindi potrebbe essere il partner di cui Sergio Marchionne aveva parlato nei mesi scorsi per completare anche la presenza geografica di Fiat e Chrysler. Dal punto di vista dei giapponesi l'intesa serve perché Mazda ha chiuso in rosso l'ultimo esercizio e ha necessità di aumentare i volumi produttivi per ridurre i costi. Ultimo, ricordiamo che appunto trattandosi di una Spider con marchio Alfa Romeo, questa intesa riconferma l'impegno del gruppo Fiat per il marchio del Biscione, anche se la vettura non verrà prodotta in Italia. Proseguono le prese di posizione a proposito della fecondazione eterologa dopo la decisione della Corte Costituzionale italiana di rimandare gli atti ai tribunali che l'avevano investita del caso. Di fatto è stata una non decisione, infatti i giudici che avevano sollevato la questione dovranno riesaminare i casi alla luce della sentenza del 2011 della Corte Europea, che riconosceva a ogni Stato un ampio margine di manovra. Giorgia Mennuni ha sentito l'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni e rappresentante legale di una delle famiglie che avevano sollecitato la questione, il presidente dell'associazione Scienza e Vita, Lucio Romano. Sicuramente non è una sconfitta, perché se i magistrati avessero voluto confermare il divieto di eterologa non avevano alcun limite a questa possibilità, avrebbero potuto emanare una sentenza di merito che confermava questo divieto nella legge numero 40. Dovrebbe essere letta all'inverso, perché rimandare alla sentenza della Grande Camera e leggendo quanto la Grande Camera aveva scritto nella sentenza appunto di riferimento, sta a indicare invece che la posizione potrebbe essere anche quella di tutela e quindi di conseguenza lasciare che rimanga il divieto per la fecondazione artificiale eterologa. E ora in Inghilterra, dove i detenuti continueranno a non avere diritto di voto. Crucially, I believe this should be a matter for Parliament to decide, not a foreign court. Deve essere il Parlamento a decidere, non una corte straniera. Queste le parole pronunciate oggi dal primo ministro britannico nella Camera dei Comuni. Il tribunale straniero sarebbe la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ieri aveva dato 6 mesi al governo di Londra per rivedere la norma che priva del diritto di voto i detenuti. «Ho sempre pensato che quando vai in prigione perdi alcuni diritti», ha aggiunto Cameron, assicurando che il governo sostiene il Parlamento nella sua decisione di non modificare la legge, in vigore da 140 anni. La Corte Europea, nella stessa sentenza, ha invece giudicato legittima la normativa italiana, che prevede la perdita del suffragio solo per i reati gravi e solo per la durata della pena. Nello stesso Question Time si è anche accesa una polemica tra conservatori e laburisti dopo che Cameron ha definito Ed Balls, cancelliere del governo ombra e esponente di primo piano del partito di opposizione, un idiota balbuziente. Il presidente della Camera ha poi costretto il premier a ritirare l'insulto. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Presentate ieri a Strasburgo i 27 piani nazionali per l'integrazione dei Rom. Secondo il commissario europeo alle politiche sociali, Laszlo Andor, è un primo passo nella lunga marcia che deve portare alla piena partecipazione dei Rom nella società europea. I piani sono articolati in 4 campi di azione: istruzione, lavoro, alloggio e assistenza sanitaria. L'aspettativa di vita dei 10-12 milioni di Rom che vivono nell'Unione è di 10 anni inferiore a quella degli altri cittadini. Il 33% è disoccupato, il 20% non ha l'assicurazione sanitaria e il 90% vive sotto la soglia di povertà. Sprechi alimentari. Secondo una ricerca commissionata dalla FAO, in Europa si buttano 80 tonnellate di cibo, di cui il 10% in Italia. I più spreconi d'Europa sono gli inglesi. È infatti degli abitanti del Regno Unito il record di maggiore spreco domestico pro capite di cibo, 110 kg. Seguono poi gli Stati Uniti, 109 kg, e l'Italia, 108. I più virtuosi, Francia, Germania e Svezia. La ricerca Global Food Losses and Food Waste, commissionata dalla FAO, evidenzia che circa un terzo del cibo prodotto ogni anno per il consumo umano, più o meno 1,3 miliardi di tonnellate, viene sprecato. Nei paesi industrializzati vengono gettati 222 milioni di tonnellate di cibo, che è quasi la stessa quantità prodotta dall'Africa subsahariana. Il tutto poi si traduce in una notevole perdita economica. Lo spreco medio giornaliero di una famiglia americana è di $4,4, cifra che basterebbe alla sopravvivenza di un'intera famiglia di un paese in via di sviluppo. Giorgia Mennuni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo a Cannes, dove si sta tenendo il Festival del Cinema. Per sostenere gli alti costi delle trasferte delle star sulla Croisette, le major cinematografiche non esitano a chiedere il pizzo sulle interviste ai divi, con un tariffario che arriva fino a 3.000 euro. A inizio maggio, un giornalista della rivista canadese Maclean's ha rivelato che Alliance Film, che presenta Killing Them Softly, il film in cui è protagonista Brad Pitt, ha chiesto ai giornalisti di pagare una partecipazione alle spese per intervistare gli attori. È il momento di Lee Daniels, già autore della disperata Precious, alla 65esima edizione del Festival di Cannes. Sulla Croisette, Daniels porta il suo film Paperboy, che promette una storia di inchiesta giornalistica e intrighi giudiziari, e vede i protagonisti Nicole Kidman e Zac Efron, idolo delle ragazzine in High School Musical. Intanto ieri ha avuto successo l'adattamento cinematografico di Sulla strada di Jack Kerouac ad opera di Walter Salles. Il film racconta la voglia di trasgressione e di liberazione dai crismi della società e del rassicurante sogno americano degli anni 40 di Saul Paradise, aspirante scrittore alter ego di Jack Kerouac. Sal riempie quaderni in cui riversa le sensazioni forti provocate dalle serate a base di droga e alcol, al ritmo di jazz, di sesso senza limiti, nell'intento di andare sempre oltre e spegnere così l'inquietudine. Ma l'euforia e l'adrenalina appagano temporaneamente, poi feriscono, tanto che il film è pervaso da un profondo senso di tristezza. Il premio sarà il romanzo Manifesto della Beat Generation, scritto in 3 settimane, che consacrerà Kerouac tra i grandi della letteratura. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un ringraziamento da Daniele Teruzzi, regia, e da Paolo Pancera in studio. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.